Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È uscito giovedì l'attesissimo nuovo romanzo di Sandro Veronesi, Veronesi che nel 2006 vinse il premio Strega con Caos Calmo. Il nuovo libro si intitola XY ed è pubblicato da Fandango. Dicevamo attesissimo perché è stato preceduto nelle scorse settimane da una campagna pubblicitaria veramente intensa e particolare, fatta praticamente tutta sul web. Attraverso il sito del libro sono stati dati nel tempo degli indizi ai lettori sul contenuto del romanzo. Su internet inoltre si trovano anche contenuti extra, un po' come succede per i film in DVD. La storia è ambientata in un piccolo paesino del Trentino che lo scrittore chiama Borgo San Giuda. La procura indaga sulla morte di 11 persone, tutte uccise in modo diverso. Si trovavano su una slitta in viaggio appunto per Borgo San Giuda, ma non ci sono mai arrivate. Da qui nasce il romanzo, che però, lo diciamo subito, non è un thriller nel senso tradizionale del termine, e lo sentirete anche dalle parole di Veronesi, piuttosto è un romanzo sul bene e sul male. Ma sentiamo da Sandro Veronesi innanzitutto come è nata l'idea della trama. Come sempre succede, si tratta di una stratificazione di successive immagini e un tentativo di collegarle insieme, la prima delle quali è un'immagine un po' gotica che però appunto mi sono trovato in testa senza sapere bene da dove venga, di questa slitta che arriva da sola, vuota, nel paese dove di solito arriva piena di turisti. Un'immagine un po' pascoliana della cavallina storna, con la differenza che qui proprio non c'è nessuno e chiaramente si capisce subito che deve essere successo qualcosa e anche qualcosa di molto grave. Questa immagine me la sono tenuta in testa per un bel po', poi sono cominciate ad arrivarne altre, ma il fatto stesso che sia sopravvissuta, io stavo ancora scrivendo il romanzo precedente, mi ha fatto pensare che ci fossero delle cose aggrappate, invisibili in quel momento, ma molto importanti per me, aggrappate a questa immagine. E via via sono cominciate a comparire, ad affiorare altre immagini, che sono la cicatrice che si riapre, l'albero ghiacciato, eccetera, e dopo ho dovuto semplicemente cercare di unirle insieme con una storia e cercando anche di pilotare la storia nella direzione che mi interessava di più, che non era quella di un semplice thriller, ma bensì di un libro, diciamo, di un romanzo, come posso dire, morale, dove ci fosse in realtà una grossa questione al fondo che riguardasse insomma il rapporto tra il bene e il male, con l'uomo nel mezzo. Quindi questo romanzo non può essere definito un thriller nel senso classico del termine? No, perché sennò i lettori avrebbero il diritto di inseguirmi e tirarmelo in testa, perché gli si prometterebbe qualche cosa che tradizionalmente è ben definito, cioè enigma e poi disvelamento dell'enigma. Il romanzo tradizionale, thriller, è così. In questo caso c'è un infittirsi del mistero che genera evidentemente un'atmosfera da thriller ed è inevitabile, però poi c'è anche una direzione che prende la storia, perché era la mia intenzione originaria, che tende a eludere in qualche modo l'enigma inteso come problema da risolvere e invece a prenderlo come sfida importante con la quale i personaggi, soprattutto i protagonisti, ma in realtà dovrebbe riguardare un po' tutti, anche i personaggi minori, devono misurarsi. Insomma, questo è un romanzo sul bene e sul male, quindi? Sì, decisamente sì, e in una accezione che io almeno personalmente ho inteso veramente universale, cioè che riguarda veramente tutti, perché questi abitanti di questo piccolo paese isolato, quindi apparentemente queste persone così lontane da noi, in realtà sono noi, sono persone abbastanza inermi di fronte al trauma quotidiano, nel nostro caso, lì invece un trauma improvviso ma enorme, che il male produce nei confronti dei suoi testimoni. Questi non sono persone che sono state colpite direttamente, ma sono semplicemente persone che sono state molto vicine a dove il male, qualunque cosa sia, si è manifestato. Noi siamo la stessa cosa, semplicemente accendendo la televisione e sentendo un paio di telegiornali al giorno. Quelle cose che succedono tutte insieme in questo romanzo succedono anche tutte insieme quasi ogni giorno nei nostri tinelli. Perché ha deciso di intitolarlo XY? Ma guardi, la storia vera è piuttosto banale, Ho visto nell'annuncio dei libri in uscita nel secondo semestre del 2000, mi pare 6 o 7, della mia casa editrice attuale, cioè la Fandango Libri, era prevista l'uscita del romanzo di Alessandro Baricco e c'era scritto XY come titolo. E io ho detto, fantastico titolo che ha trovato Baricco per il suo romanzo. Poi quando ne ho chiesto conto mi è stato detto che no, era stato messo così perché ancora non aveva comunicato il titolo e quindi era stato scritto XY così. Allora a quel punto mi sono sentito, diciamo, autorizzato ad appropriarmene, perché nello stesso tempo io stavo scrivendo il romanzo e mi sono reso conto che quello era il titolo. Adesso poi posso spiegare il perché quello era il titolo, però se non ci fosse stato questo accidente, diciamo, molto probabilmente non sarebbe stato questo il titolo. Il perché è che in questo, diciamo, binomio o antinomia si possono rintracciare tutti i temi del libro, che vanno dal rapporto tra i due sessi e anche, diciamo, il valore iniziatico che si dà a questo rapporto tra i due sessi, inteso come cromosomi X e Y, fino agli assi cartesiani, simbolo della ragione, oppure alle incognite delle equazioni e alle incognite dei misteri che tradizionalmente sono accompagnate da queste lettere. Ecco, lei ci ha messo circa 4 anni per scrivere questo romanzo. È stata una gestazione faticosa? Beh, per me è sempre faticoso per sé scrivere. Poi in questo caso è stato particolarmente faticoso perché mentre scrivevo il romanzo sono accadute delle cose molto importanti nella mia vita privata, alcune irreparabili. Ho perso entrambi i genitori a distanza l'uno dall'altro di pochi mesi, però poi ho avuto anche una figlia, insomma delle cose veramente importanti in confronto alle quali questo romanzo, almeno, ma direi qualsiasi romanzo, diventava meno importante di quanto non dovesse esserlo per uno che intendesse, diciamo, finire il lavoro come priorità. Per cui io ho sospeso la scrittura per parecchi mesi per occuparmi di cose che in quel momento erano più importanti, sia in termini proprio di assistenza, di fare il possibile, sia anche soprattutto in termini emotivi, perché ero catturato prima in situazioni molto, molto dure e tristi e poi per contro nel ciclo della vita in situazioni invece molto gioiose e molto non so, la nascita di un figlio, faccia lei, per me è una delle cose più emozionanti che ci possono essere. Senta, un'ultima domanda. Questo libro è stato anticipato da una campagna promozionale su internet, Facebook, suggerimenti, consigli, indicazioni per i lettori. Lei ha paura che un po' tutto questo alzare, insomma, la voce su questo libro possa poi essere un boomerang, oppure ha fiducia che poi il lettore, insomma, trovi quello che si aspettava? No, nel senso che se il libro non piace non sarà certo colpa della promozione che è stata fatta, più persone magari se non piace lo diranno, il che significa che almeno la promozione era stata fatta bene e non l'ho fatta io l'ho semplicemente approvata, diciamo, ma poi è stata condotta da questi ragazzi della Fandango che si occupano del web e che sono secondo me molto capaci. Io non credo che una promozione, tra l'altro apparentemente fin qui ben riuscita, che ha ottenuto menzioni anche in siti di design all'estero, possa nuocere a un romanzo. Se il romanzo piace, piace, se non piace non è certo colpa della promozione, e credo che se un lettore che arriva a questo romanzo, credo se si interessa a questo romanzo non sarà certo il primo romanzo che legge, può essere che sia il primo mio, ma insomma sicuramente ha una certa esperienza, non credo che si faccia ingannare fino a confondere la promozione, cioè la pubblicità, con l'opera. Evidentemente saprà giudicare le due cose separate, e se la promozione gli ha dato fastidio perché è stata troppo visibile, io arrivo a dire che invece per me, autore con una piccola casa editrice come Fandango Libri, quella grande visibilità è il sintomo di una riuscita. E questo era Sandro Veronesi, ora in libreria con XY, pubblicato da Fandango. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.